quando la cambia è una bella bozza. Ed è un giocattolo, è pesa, è un giocattolo quello lì. Immagina cambiare le batterie di una Tesla o anche di una normale Renault Zoe, quelle elettriche, mi ti fai prima cambiare macchina, capito Antonè? Vabbè, a me va bene questa qui per il momento, poi in seguito diceva che vado a De Villa, mi prendo quella che è chiusa, quella che stanno pubblicizzando. Ho già chiesto quanto ne vuole, mi ha sparato 6.000 euro, mi ha sparato. Quindi un posto chiusa, c'ha le marce, sembra una 500 di quelle piccoline, ce le presenti. Un posto solo c'ha. Non c'è bisogno né di patente, né di bordo, né di assicurazione. Mi raccomando, da guidare da sobrio. Ah, quello già è vero. Certo non puoi guidare a ubriaco con quella macchina lì, no? Se no, se te ne viene qualcun addosso ti apre in due. È come avere l'appeccato. Io. No, peggio l'appeccato. Quello è. C'è una foto da mandare, no? Vabbè, capirà, quando capita lo vediamo. C'era Giovanna, c'era nel suo telefonino, se c'hai il Facebook, cerchi il nome e cognome di Giovanna, la vedi, l'ha fatta vedere la fotografia nel telefonino suo. Io mi sono dimenticato di farla, la verità, perché avevo lasciato il telefonino a Giampiero, il mio, quindi quando qualcuno mi telefonava, rispondeva lui, perché c'avevo il 371, capito? Non l'altro, il 210. Adesso Giampiero gli ho comprato la carta nuova l'altro giorno e ci ha comprato il telefono nuovo. Vabbè, Facebook io non sono iscritto perché non mi interessano i social. Se è roba che si può guardare liberamente, senza iscriversi. Ma il cognome com'è? Quello da nubile o il cognome del marito? No, il cognome da nubile, basta che tu guardi Giovanna. Capito? Già lo sai, il cognome qui non c'è problema. Vedi tutto la parola sua, capito? Non è detto che le foto entrare su Facebook, basta che guardi il suo profilo. Eia, va bene. È interessante, ma è coperto o è aperto? Cioè, sarà la copertura, la capottina o proprio i piccoli aperti? No, è aperta questa, però si può mettere la capottina e anche il, come si dice, il parabrezza davanti. Guarda, ne ho visto uno l'altro giorno da Conad, c'era un ragazzo, un uomo insomma, un ragazzo, già era un uomo maturo, con uno di quei mezzi là. Sono carini, naturalmente, vabbè, devi avere dove metterlo, poi chi li usa c'ha qualche patologia di solito, e così dai, sono mezzi particolari, per anziani o per invalidi, tu vabbè, è perché non hai patente, eccetera. Vediamo se c'è Natalino all'ascolto, che forse a quest'ora ha finito di mangiare. Natalino, ci sei? Tutti morti oggi, boh. Natalino, combo! Cocca fritta! Non si può fare niente con te. Luca, ma che è normale che tu sia a Santiago Nove qua? Non lo so, sto usando il baracco. Sicuro, si controlla bene. Vabbè, questo è secco, no? Cioè, però, caspita, prova a modulare un... O vuoi mettere una vocale, ola, fai prova. Vedi un po', prova, 1, 2, 3. No, già sale, 9 più 15, modulato sale, quindi c'hai pochi watt magari, l'importante è bianca e il resto sono modulati, va bene. Di primo acchito il segnale era basso, ho detto come mai? O dipende da me o dipende da lui. Pare che sono, non sai che tu così con il segnale. conto che questo è anche un smitter che è tarato secco, questo la, anche la presidente lo specifica, quasi se ne vanta, dice il tarato a 100 microvolt per Santiago 9 in realtà dovrebbe essere 50 microvolt, infatti qua chi mi arriva a 8 lo vai a controllare col 3009 e risulta Santiago 9. Infatti boh, sono passato all'altro chiappa. Ma non capisco il perché, perché in HF, nello spettro HF, Santiago 9 è 50 microvolt, io sapevo quello, l'ho letto in forum di radiatori, forse anche libri, in HF, no? Con la solita antenna 50 ohm, bla bla bla, vale varie. Sì, esatto. Ben sì, bene. Sistemato da quell'apparecchio che mi hai mandato le foto. Sistemato, finito, mandato, eccetera. Vabbè Antonio, come mai non si dà crisi, si sente cantare? No, un giro. No, sono uscito ieri la verità a fare la spesa, ho preso acqua io e Giovanna e siamo tutti e due arrugitti, capito? Capito, ho messo più male di noi due, c'è una tosse allucinante e quindi non ci sono andato. C'è la tosse anche Giovanna, cosa fa? Va lì e quando si sente lo tossire, poi magari ti pigliano perché c'è il cubito. È successo a me un giorno che sono entrato, ho fatto la spesa, sono entrato al bar, ho avuto la birra ghiacciata, mi è venuto la tossire immediatamente, vai fuori da qua, mi ha detto controllati se tanto c'è il cubo, dico questa tosse non ti vogliamo. Già ti coglione, aspetta un attimo, dato che se parlo così, facciamo, vado in farmacia, aspetta 20 euro, ho detto mi faccio il tampone. Vediamo che c'ha ragione, se io ho detto c'ho ragione, ho detto paghi la bella di tu, non ti pago niente, io ho detto. Così ho fatto. Questo ho fatto il tampone e l'ho consegnato, ok, leggi tu bene, gli ho detto, e non mi rompere più i coglioni. Stata zitta, non ha più fabbricato. Vai Marco. Ma ancora ci sono i test nelle farmacie? Costano sì, io li ho presi da cinese, costavano tipo 2 euro, 2,50, ce li ho ancora. Uno è per il naso, l'altro invece è salivare, non l'ho mai trovato quello. Oh, comunque, ascolta, qua tutti hanno avuto il Covid a Sassari. Se li senti, non c'è nessuno che non l'abbia avuto, noi in famiglia non abbiamo avuto un accidente di niente. Né io, né mamma, né mia zia, né mio zio, nulla, nessuno ne ha mai avuto. È come che non esistesse per me, o è un caso, oppure siamo resistenti, come l'influenza, allora l'influenza non ci beccano mai. Stessa cosa è difficile che mi prenda. Anche mio padre era così, anche mio padre si vede così, mai, raramente. È quello perché mamma aveva passato con l'influenza, come si chiama? Porca miseria, non so se l'asiatica cos'era, quindi è come se fosse un ceppo originale di tutti i ceppi esistenti adesso, no? E quindi è come se fosse parzialmente immunizzata e io l'ho preso da lei. Ma con il Covid, con il suo vaccino, per carità, non mi tenne in bocca di niente. Ma infatti, quello che non ha fatto il Covid come danno, l'ha fatto il vaccino. E tutti però correndo a farselo, anche senza essere costretti, senza essere costretti. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Adesso dice che stanno sperando quasi di poterlo unire a quello dell'influenza, così se sei obbligato a fare uno per lavoro, devi farti anche l'altro. Non li puoi separare, capito? Farabutti. Così ne mattano di più di gente, allora vogliono sterminare la popolazione. Yeah. Lasciare fare, se non fanno piccio, cioè quello. Io ho fatto il vaccino, ma l'ho rovinato a me. Figurati. Da quando ho fatto questo cazzo di vaccino, mi sento, mi vengono questi cosi. Che roba che non c'avevo prima. sincopi, cose del genere, poi a volte quando ti alzi dal letto ti gira tutta la stanza, ti gira, capito? Vedi te si sta lamentando. Da quando ha fatto il vaccino, boh, arruinati. Poi hanno il braccio debole, uno e l'altro più forte, c'è che lo prende la gamba, un bel gente. Io ne ho giocato due, il quarto non lo faccio, questo è poco ma sicuro. Hola. Avanti. Avanti chi chiama? Avanti, chi è? Ma forse non ce l'ascolta, boh. Sì, ho sentito un'ola, ma non è propagazione, no? No, no, sento anche io un'ola. Non lo so. È impalito. Io da bere, dai. Forse mi faccio anche il caffè. Mi lascio. A dopo, forse. Se no, ritenete vi salutate, ok? Ciao, ciao a tutti. Vai, Antonio. Ciao, Marco, ci sentiamo. Adesso.